Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. E poi, un giorno di quelli, mi aveva convinto che era giunto il momento di procedere all'estrazione di un incisivo divenuto oramai malfermo. Il filo era stato legato con cura ed era il momento di procedere. La paura, come sempre, era tanta. Chiesi a mia madre di sospendere l'operazione e tornai a giocare. Sono Gianni, ho 61 anni, sono nato fra le montagne dell'Appennino bolognese, sono sposato e ho una figlia e vivo a Bologna con mia moglie Nadia da 52 anni. Mia nonna aveva 5 fratelli: Fernando, classe 1911, Ferruccio, 1912, Franco, 1914, Carlo, 1921 e Vincenzo, 1926. Con lo scoppio della guerra mondiale vennero chiamati alle armi tutti i fratelli, tranne Vincenzo, per evidenti limiti di età, e Fernando, per motivi di salute. Ferruccio era arruolato nella seconda divisione di fanteria sforzesca, che partì per il fronte greco-albanese. Franco, il più sé fortunà, era a distanza alla polveriera di Solaro, a 15 minuti di bicicletta da casa. Carlo, invece, che l'era un bagai, si era arruolato in una divisione motorizzata e spedito in quella che allora era l'Abissinia, le terre d'Africa del glorioso impero. La guerra, poi, prende il verso che tutti noi conosciamo. Sono le 16:09, buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, in diretta da Milano, ovviamente dalla sede di Via Monterosa 91, e il programma è Voi siete qui. Queste poche righe che vi ho appena letto fanno parte di un racconto arrivato pochi giorni fa, che probabilmente diventerà una storia che andrà in onda nel mese di luglio. Come vi dicevamo, al mese di luglio saremo in onda con puntate originali, a differenza degli anni passati che mandavamo una sorta di best of, mettevamo insieme le puntate migliori della stagione. Invece ci spariamo tutto il mese di luglio con delle puntate tematiche, però ve l'ho già detto e ve lo ricordo ancora: se avete voglia di scrivere per il mese di luglio, noi dedichiamo tutta la mensilità, tutto il mese, a 4 temi diversi. Quello che avete appena sentito, quello di Luca, è un racconto che parla di guerra. Sapete che questo è il centenario della prima guerra mondiale. La sua in realtà parla della seconda guerra, ma non stiamo lì a sindacare, insomma, sempre di guerra si parla. Quindi, se avete delle storie che hanno a che fare con la guerra e volete raccontarceli, questo è uno dei temi. Uno degli altri temi, invece, sono storie di avventure, ma avventure vere, proprio che siete partiti in, non per forza per fare un viaggio, ma siete partiti con un'avventura particolare, che fosse fare un'impresa, che fosse un viaggio con dei vostri amici, con dei vostri colleghi, è successo qualcosa di estremamente avventuroso e ne siete usciti. Quindi storie di guerra, storie di avventura, storie di viaggio, semplicemente viaggi che avete fatto da soli o in compagnia e che in qualche modo vi hanno segnato. E poi storie legate ai mondiali di calcio, visti sul divano o in Pakistan, come c'era accaduto qualche tempo fa con Nicola, che era un ascoltatore che si dimenticò dei mondiali, prenotò un viaggio in Pakistan e poi obbligò i suoi compagni di viaggio a guardarseli nei posti più incredibili in giro per il Pakistan. Quindi, se avete voglia di partecipare a questo programma, il mese di luglio lo dedichiamo a queste quattro tematiche: i viaggi, l'avventura, la guerra e i mondiali. L'indirizzo è sempre quello, e voi siete qui @radio24.it, e anche le pagine da mandare più o meno sono quelle, una, massimo due pagine. Mandatecele, non dico in fretta, però ecco, appena potete, così cominciamo a lavorarci, perché giugno è praticamente domani, luglio è dopodomani. Buongiorno a tutti, oggi continuiamo a raccontare storie. La storia di oggi è la storia di Gianni e questa è, ne parlavamo prima con Tiziano, è davvero un esempio quasi tipico di una puntata di questo programma, nel senso che spesso incontro delle persone che mi dicono: io vorrei mandare una storia ma non so cosa raccontare, a me non è successo mai nulla di particolare, le storie mi sembrano tutte straordinarie. Ecco, la storia di Gianni invece è una storia che è accaduta a tutti. È che c'è un'età, c'è un momento molto presto nella vita delle persone in cui si comincia a perdere qualcosa, ma in maniera proprio evidente e non metaforica, si perdono i denti da latte, e tutti in qualche modo ricordano quel momento come un momento importante, oppure no, un momento traumatico, un momento lieve, e tutti si ricordano il modo in cui quei denti sono stati staccati. Ecco, questa è una storia leggerissima ma che è perfetta per questo programma. 349-238-6666. Veronica, ho perso entrambi gli incisivi con un tirone, sangue e fiotti a risciacqui con acqua e vino rosso del nonno, non so perché vino, comunque fu un grande trauma. Voi siete qui Radio 24 sul profilo Facebook. Mario, ho perso i denti da latte mangiando una fetta di pane con la Nutella, era la mia richiesta prima di passare al filo o alla spinta. Francesca, i primi due non cadevano e sotto già crescevano i permanenti. Dentista, gli altri sempre strap. Poi un enorme gelato e la notte arrivava la formichina a lasciare la mancia. 349-238-6666. Ogni genitore o ogni nonno aveva un modo per strappare i denti da latte. Qual era quello, quello vostro, quello dei vostri genitori o parenti? 349-238-6666. Questo era il metodo dei genitori di Gianni. Sono nato una sessantina di anni fa in una piccola borgata sull'Appennino bolognese, denominata Frescare. 6 nuclei familiari per un totale di 18 persone, di cui 7 anziani, 6 persone in età lavorativa e 5 bambini, 4 femmine e io. Ero nell'età nella quale cadono i denti da latte e mia madre, quando iniziavano ad essere malfermi, si incaricava di estrarmeli utilizzando un robusto filo di cotone col quale li legava al colletto e poi, tirando in modo leggero ma deciso, li faceva cadere. La cosa non mi piaceva per nulla. Un giorno di quelli mi aveva convinto che era giunto il momento di procedere all'estrazione di un incisivo divenuto ormai malfermo. I denti da latte arrivano al punto in cui scuotono e sono malfermi in bocca e quindi diventa facile, utilizzando anche la punta delle dita e le unghie in particolare, legare un sottile filo di cotone robusto. E quindi le mamme, la mia mamma in particolare, utilizzava questo metodo per togliere i denti che risultavano malfermi. Il filo era stato legato con cura ed era arrivato il momento di procedere. La paura, come sempre, era tanta. Chiesi a mia madre di sospendere l'operazione e tornai a giocare. Dopo un poco mi chiamò e disse che era venuto il momento di agire. Io rifiutai categoricamente. Così, dopo una breve trattativa, lei decise che mi avrebbe rinchiuso nel pollaio fino a quando non fossi stato disposto a consentirle di procedere all'estrazione. Era pomeriggio e le galline erano tutte fuori a razzolare. Fuori, nell'aia, c'era anche il mio bisnonno Angelo, che mi voleva un gran bene e manifestava il suo disappunto per ciò che stava accadendo, camminando avanti e indietro e prendendo a bastonate i sassolini del selciato e ripetendo che a suo vedere quello non era il modo di procedere. Io, dentro al pollaio, dopo un poco mi innervosii e cominciai a prendere a calci i nidi dove le galline deponevano abitualmente le uova. In un eccesso d'ira, me la presi anche con l'immagine di Sant'Antonio Abate attaccata alla parte interna della porta allo scopo di garantire protezione agli ospiti del pollaio. Sentendo il trambusto e accogliendo le obiezioni del bisnonno, mia madre mi fece uscire. Mi sgridò per ciò che avevo fatto e disse che avrebbe raccontato tutto a mio padre la sera, al suo ritorno dal lavoro. Si trattava proprio di una specie di isolamento temporaneo che doveva portarmi a più miti consigli che invece poi alla fine non ha sortito il risultato che la mamma sperava. In compenso il pollaio ha avuto qualche piccolo danno rimediabile dovuto alla mia collera per il fatto di essere stato rinchiuso. Trascorsi il resto del pomeriggio a rimuginare su ciò che avrebbe potuto accadermi e attesi preoccupato mio padre. Al suo ritorno ascoltò il resoconto di mia madre e poi, serio in volto, mi chiamò a sé. Mi chiese di aprire la bocca, di fargli vedere quale fosse il dentino che aveva estratto. Identificarlo fu facile perché per tutto il pomeriggio era rimasto col filo attaccato. Mi disse di stare tranquillo, che lo avrebbe toccato per sentire se davvero fosse malfermo. Mi avvicinai fiducioso, aprì la bocca e lui, con un colpetto deciso, provocò il distacco del dentino, che cadde a terra. Il mio viso si solcò di lacrime, ma meravigliato, non piansi. Era tutto finito. Mio padre non mi sgridò ed io capii che in certi momenti della vita occorre avere il coraggio di fare le cose necessarie. Questa storia ci mette di fronte a un dilemma. È la storia di un piccolo trauma o di un normale passaggio che si vorrebbe rimandare? Certo, se la storia ha per protagonista un bambino è tutto più spiegabile, ma se uno vive lo stesso dilemma a 35 anni, non sai esattamente che risposte darti. Io da sempre avevo un neo sul mento. Non mi dava nessun fastidio e a dire la verità non era nemmeno brutto. Una volta ero stato da un dermatologo che mi aveva detto che il neo se ne sarebbe rimasto per i fatti suoi sul mio mento senza creare nessun problema. Ma che se l'avessi voluto me lo poteva levare. Io avevo detto no grazie e me l'ero tenuto. Non ho mai pensato al mio neo come a qualcosa da levare, né che mi abbellisse o mi imbruttisse. Semplicemente avevo un neo sul mento. Poi, un giorno, a 35 anni, mentre mi stavo cambiando nello spogliatoio prima di una partita a tennis, il mio maestro ha notato sotto la mia ascella sinistra un ciccetto di grasso. Io non mi ero mai accorto di quella minuscola escrescenza e non ci ho dato un gran peso lì per lì. Dopo qualche giorno, però, mi sono sorpreso a cercarlo sotto la doccia oppure mentre mi vestivo. E nel giro di pochissimo tempo, in tutti quei momenti in cui concedi ai pensieri di andare dove vogliono, ecco, la mia mente andava proprio là, sotto l'ascella. Era diventata la mia personale ossessione. Così, quando il maestro di tennis, qualche settimana più tardi, mi ha detto che il padre della sua fidanzata sapeva levare cose come quella, ho detto subito di sì. Era il maestro di tennis, era pur sempre un'autorità. I primi dubbi mi sono venuti quando la sua fidanzata, cioè la figlia del mio guaritore, mi ha confessato che suo padre non era un dermatologo o robe del genere, era un ex tappezziere con più di 80 anni che aveva imparato a bruciare quegli strani eccessi di pelle da ragazzo, da un vicino di casa. Ha ripulito i corpi di tutto il quartiere, mi ha detto lei. Io però non mi fiderei proprio. Le sue parole, essendo la figlia, mi hanno spaventato, ma avevo dato la mia parola a un uomo di 80 anni, quindi non me lo sentivo di chiamarlo e dirgli «guarda, ci ho ripensato perché non mi fido». Ho cercato di procrastinare, ma le persone anziane giustamente si aggrappano alle cose per le quali sono indispensabili. Quindi mi ha richiamato, mi ha lasciato messaggi in segreteria, chiamandosi Roger invece che Ruggero, per sembrare un po' più giovane, e io non me la sono sentita. Quando è arrivato il giorno, mi ha accolto come il più gradito degli ospiti a casa sua. Sua moglie mi ha fatto il caffè e poi ci ha lasciati soli, come si faceva quando gli uomini avevano le loro cose da sbrigare. Io mi sono messo a torso nudo e gli ho fatto vedere subito l'ascella. Volevo finire il più in fretta possibile, lui invece no. Mi ha guardato tutto il petto, come un vero dermatologo, ed è salito fino al neo sul mento. È rimasto in silenzio, ha fatto il conto dei nei, ha aperto l'astuccio che conteneva i suoi attrezzi. Io intanto sudavo. I suoi attrezzi consistevano in un accendino Bic verde e una decina di bastoncini tipo dell'incenso, ma fatti apposta, lui diceva. Li ha incendiati e appena il fuoco si spegneva, avvicinava il minuscolo tizzone al mio corpo. Alla fine della seduta ha chiamato la moglie, si è fatto portare un bicchiere d'acqua, ha bevuto tutto il bicchiere e mi ha detto «voilà, sei a posto». Mi aveva levato tutto. Via il ciccetto sotto l'ascella, via il neo sul mento e via anche parecchi altri piccoli nei che non sapevo nemmeno di avere. Non ce l'ho fatta a fermarlo. E non so ancora dire se è stato un piccolo trauma oppure un normale passaggio che avevo rimandato per 35 anni. C'è un pezzo di storia nella foto che ci ha mandato Gianni e che trovate sul nostro sito, voi siete qui Radio 24, è un pezzo della sua storia ovviamente, ma è un pezzo della storia di questo popolo, di questo paese. Lui è giovanissimo, la foto è seppiata, è elegantissimo, con una giacca a doppio petto chiara e una fascia bianca sul braccio che non capisco che cosa significhi, i pantaloni corti direi da quel poco che si vede, di fianco a una macchina che adesso dirò che è una bianchina, ma non è una bianchina e Gianni sicuramente ci dirà che auto è. Pronto Gianni? Sì, ciao. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, bene, grazie a voi per la bellissima trasmissione e per utilizzare tutti i giorni lo storytelling, che credo che sia uno strumento fantastico. Quasi tutto quello che sappiamo l'abbiamo imparato con questo strumento, anche se in modo magari a volte inconsapevole. Che semplicemente prima si chiamava raccontare storie, adesso lo chiamano storytelling, però esatto. È più o meno quella roba lì. Gianni, mi dici, ti ringrazio, Gianni, mi dici che auto è innanzitutto? Non è una allora, intanto non è la mia. e neanche di nessuno della mia famiglia, però mi piaceva farmi fotografare vicino a questa automobile che è una Fiat 600. Una 600. E quello che indosso, sì, è l'abito della cresima, allora si usava così, mettere una fascia bianca al braccio, e i pantaloni sono corti perché a quei tempi i pantaloni lunghi si mettevano quando si diventava grandi. Da adulti, certo, quindi tu hai un doppio petto impeccabile e i pantaloni corti. Andate a vedere questa foto che è magnifica. Gianni, senti, la prima cosa che vorrei chiederti è la figura di questo bisnonno che mugugna mentre tu sei chiuso nel pollaio e dice non è questo il metodo. Quanti anni aveva il bisnonno Angelo? Angelo non era vecchissimo, per quei tempi comunque avere quasi 80 anni era tanto, perché avrà avuto 78-79 anni, eravamo all'inizio degli anni 60. Senti, tu cos'è accaduto poi da quel dente levato ad oggi? Cosa hai fatto nella vita? Nella vita ho fatto il funzionario di banca per uno dei più grossi gruppi creditizi europei e ho lavorato per 40 anni in questo settore. Adesso sono, come si dice in questi periodi, esodato, in attesa di andare in pensione. Quanto ti manca? Mi manca poco, a marzo dell'anno prossimo sarà il momento in cui sarò ufficialmente pensionato. Quindi insomma sostanzialmente stai tirando la cinghia fino a marzo oppure te la cavi più o meno tranquillamente? No, me la cavo bene, diciamo che approfitto di questa maggior quantità di tempo libero per andare in bicicletta, che è sempre stata la mia grande passione, quindi adesso finalmente ho tempo per poterlo fare, qualche ora al giorno, 2-3 giorni alla settimana me li regalo e vado fuori. Che immagino sia una fortuna questa, no? Perché trovarsi con tantissimo tempo a disposizione anche in maniera abbastanza inaspettata, perché una pensione uno se l'aspetta, invece un'esodazione, non so come si dica esattamente, però è un po' più improvvisa. Scusa, rimango un attimo in questo ambiente che mi interessa. Tu hai notizie dei colleghi che si trovano nella tua situazione invece, come la vivono questa cosa? Beh sì, diciamo che mi sono mantenuto in contatto con tutti i colleghi, anche con quelli che ancora lavorano. Adesso per fortuna con i social network si riesce a fare, certo, cose che prima erano assolutamente impensabili. Devo dire che i miei colleghi, quindi quelli che appartengono allo stesso gruppo creditizio per il quale ho lavorato io, mediamente sono tutti quanti ben sistemati, quindi diciamo che nessuno di loro è stato lasciato senza tutele, e quindi c'è una situazione, ritengo, abbastanza tranquilla. Insomma, si sta solo aspettando che finisca questo periodo per poter andare ufficialmente in pensione. E tra l'altro la tua storia, che parla di un dente da latte, però poi invece dice altre cose, no? Per cui tu chiudi dicendo nella vita occorre avere il coraggio di fare le cose necessarie in qualche modo, che in questo caso mi pare sia semplicemente aspettare che passi una stagione, insomma che si chiuda una stagione e se ne apra un'altra alla fine. Certo. Devo dire che mio padre, da questo punto di vista, ancora mi sta insegnando. Adesso ha 90 anni, purtroppo per lui da oltre 5 anni è paralizzato, quindi è completamente immobilizzato su una sedia a rotelle, ma mi sta insegnando con la sua grande dignità anche proprio ad affrontare situazioni veramente difficili, quindi non si finisce mai di imparare, ecco, sostanzialmente. Gianni, grazie ancora per il garbo della tua storia e della tua voce, della chiacchierata. Io ti aspetto, se tu hai voglia di venire, magari in bici, se no in auto, il 26 di giugno per live finale del programma. Di solito è una bella festa, se hai voglia di venire a noi fa molto piacere. Bene, continuerò a seguirvi con grande effetto. Ciao Gianni, grazie ancora. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Per chiudere, il metodo della porta che sbatte col filo legato al dentino pare che sia appunto da nord a sud del paese, valeva sempre. Fermo, fermo, fermo. Boom! Grazie a Tiziano Bonini, Paolino Corleoni, Margherita Hina e Mauro Pescio. Grazie soprattutto a Gianni, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa.